Da quando gli attori non erano più, per me, i semplici depositari nella dizione e nella mimica di una verità artistica, mi interessavano in se stessi. Mi divertiva, dandomi la sensazione di contemplare i personaggi di una vecchia storia di comici, vedere l'ingenua che, distratta dal volto nuovo di un giovane signore entrato in sala, ascoltava appena la dichiarazione fattale sul palcoscenico dal primo amoroso, mentre questi, nel fuoco di fila della sua tirata, non tralasciava di scoccare uno sguardo infiammato verso una vecchia dama seduta in un palco vicino, le cui magnifiche perle l'avevano colpito. E così, grazie soprattutto alle informazioni passatemi da Saint Liu sulla vita privata degli attori, io vedevo un'altra commedia, muta ed espressiva, svolgersi sotto la commedia parlata, la quale, del resto, sebbene mediocre, mi interessava pur sempre, giacché vi sentivo germinare e dischiudersi nello spazio di un'ora alla luce della ribalta, con l'agglutinarsi sul volto di un attore, di un altro volto di belletto e di cartone e delle parole del ruolo sulla sua anima personale, quelle individualità effimere e vivide, e seducenti anche, che sono i personaggi di una commedia, individualità per le quali proviamo amore, ammirazione, pietà, e che vorremmo, lasciato il teatro, poter incontrare ancora, ma già si sono disgregate in un attore la cui condizione non è più quella che egli viveva nella commedia, in un testo che non ci fa più vedere il volto dell'attore, in una polvere colorata di cui il fazzoletto cancella ogni traccia, riducendosi, insomma, a singoli elementi che di quelle individualità non hanno più nulla, per una dissoluzione consumatasi appena finito lo spettacolo e che, come quella di una persona amata, ci fa dubitare della realtà dell'io e meditare sulla morte. Un numero del programma mi riuscì estremamente penoso. Una giovane che Rachel e parecchie sue amiche detestavano era chiamata, con un repertorio di vecchie canzoni, a un debutto cui aveva affidato tutte le sue speranze per il futuro e quelle del parentado. Aveva, questa giovane, un sedere troppo prominente, quasi ridicolo, e una voce bella ma esile, ulteriormente affievolita dall'emozione e in netto contrasto con la sua possente muscolatura. Rachel aveva piazzato in sala un certo numero di amici e amiche che con i loro sarcasmi avrebbero dovuto sconcertare la debuttante, notoriamente timida, in modo che perdesse la testa e facesse un fiasco completo, dopo il quale il direttore non l'avrebbe più scritturata. Sin dalle prime note della poveretta, alcuni spettatori, reclutati all'uopo, si misero ad additarsi ridacchiando il suo di dietro. Alcune donne partecipanti al complotto scoppiarono a ridere forte. Ogni nota flautata accresceva la calcolata ilarità che volgeva ormai allo scandalo. L'infelice, che sudava di tormento sotto il trucco, cercò per un istante di reagire. Poi lanciò tutto intorno sul pubblico degli sguardi indignati, desolati, che non fecero che raddoppiare la cagnara. L'istinto di imitazione, il desiderio di mostrarsi spiritose e spavalde, contagiarono certe belle attrici che, pur non essendo state avvertite, si scambiavano occhiate di perfida complicità, si torcevano dalle risa, in preda a violenti accessi, tanto che, alla fine della seconda canzone, e sebbene il programma ne prevedesse ancora cinque, il direttore di scena fece calare il sipario. Mi sforzai di non pensare a questo incidente più di quanto avessi un tempo pensato alla sofferenza della nonna quando il mio prozio, per punzecchiarla, induceva il nonno a bere del cognac, giacché l'idea della cattiveria aveva, per me, qualcosa di insopportabilmente doloroso. E tuttavia, come la pietà nei confronti di un infelice non è, forse, del tutto esatta, dal momento che la nostra immaginazione ricrea tutta una sofferenza sulla quale l'infelice, costretto a combatterla, si guarda bene dal commuoversi, così nell'animo del malvagio la malvagità è probabilmente priva di quella crudeltà pura e voluttuosa che tanto ci fa male immaginare. È l'odio ad ispirarla, la collera ad infonderle un ardore, un'operosità che non hanno nulla di gioioso. Ci vorrebbe del sadismo per ricavarne piacere. Il malvagio è convinto di far soffrire i malvagi. Rachel pensava certo che l'attrice da lei torturata non valesse nulla e che, comunque, farla fischiare significasse vendicare il buon gusto e dare una lezione a una cattiva collega. Non di meno, visto che non avevo avuto né il coraggio né la forza di impedire l'incidente, preferì passarlo sotto silenzio. Mi sarebbe riuscito troppo penoso, parlando bene della vittima, equiparare alle soddisfazioni della crudeltà i sentimenti che animavano i carnefici della debuttante. Ma l'inizio della rappresentazione stimolò, da un altro punto di vista, il mio interesse. Mi fece capire, in parte, la natura dell'illusione di cui era vittima Saint Lieu nei confronti di Rachel e che aveva reso così abissalmente diverse le rispettive immagini della sua amante alle quali noi due, Robert e io, c'eravamo riferiti vedendola quel mattino sotto i peri in fiore. Rachel aveva, in quella commediola, una parte quasi di semplice figurante, ma, vista così, era un'altra donna. Rachel aveva uno di quei volti cui la lontananza, e non necessariamente quella della scena, visto che il mondo non è che un teatro più grande, dà precisione e risalto, mentre a vederli da vicino ricadono in polvere. Standole accanto si vedeva soltanto una nebulosa, una via lattea di lentiggini, di foruncoletti, nient'altro. A una giusta distanza tutto ciò diventava invisibile e dalle guance cancellate, riassorbite, spuntava, sottile come una luna crescente, un naso così bello, così puro, che l'osservatore avrebbe voluto monopolizzare l'attenzione di Rachel, rivederla indefinitamente, tenersela accanto, a patto che non l'avesse mai vista altrimenti e da vicino. Non era il mio caso, ma era stato proprio quello di Saint Lieu quando l'aveva vista recitare per la prima volta. Si era chiesto allora come fare ad avvicinarla, a conoscerla. Gli si era dischiuso tutto un regno meraviglioso, quello in cui viveva Rachel, donde giungevano radiazioni sublimi, ma nel quale lui non poteva penetrare. Uscendo dal teatro, si disse che scriverle sarebbe stata una follia, che non gli avrebbe risposto, prontissimo a dare la propria fortuna e il proprio nome per quella creatura che viveva dentro di lui in un mondo tanto superiore alle abusate realtà, un mondo illeggiadrito dal desiderio e dal sogno. Quando, dal teatro, una vecchia piccola costruzione che sembrava anch'essa uno scenario, vide sbucare, all'uscita degli artisti, la gaia brigata delle attrici che avevano preso parte alla recita con i loro graziosi cappellini. Dei giovanotti che le conoscevano erano lì ad aspettarle. Poiché le pedine umane sono meno numerose delle combinazioni cui possono dar luogo, succede che, in un locale dove mancano tutte le persone che pensavamo di potervi incontrare, se ne trova una che mai avremmo creduto di rivedere e che capita così a proposito da far apparire il caso addirittura provvidenziale, mentre se ne sarebbe certamente verificato un altro se, anziché in quel luogo, fossimo stati in un altro, dove avremmo concepito altri desideri e incontrato qualche altra vecchia conoscenza in grado di assecondarli. Le porte d'oro del mondo dei sogni si erano richiuse su Rachel prima che Saint Lieu la vedesse uscire dal teatro, così da ridimensionare lentiggini e furuncoli. Gli dispiacquero, tuttavia, anche perché, non essendo più solo, non possedeva la stessa capacità di sognare avuta a teatro. Ma, sebbene lui non potesse più accorgersene, lei continuava ad influenzare le sue azioni, come gli astri che ci governano con la loro attrazione anche durante le ore in cui ci rimangono invisibili. Così, il desiderio dell'attrice, le cui delicate fattezze non erano nemmeno più presenti alla sua memoria, fece sì che Robert si avventasse sul vecchio compagno che era lì per caso e gli chiedesse di presentarlo a una ragazza senza fattezze e cosparsa di lentiggini, solo perché si trattava della stessa persona, riservandosi di accertare in seguito quale delle due fosse in realtà l'attrice. Lei aveva fretta, non gli rivolse neppure quella prima volta la parola, e fu solo dopo diversi giorni che Saint-Lieu riuscì a portarla con sé, ottenendo che si separasse dalle compagne. Ne era già innamorato. L'urgenza del sogno, il desiderio di ricevere gioia da colei che si è sognata, fanno sì che non occorra molto tempo perché ogni speranza di felicità venga riposta in una donna che, pochi giorni prima, era solo un'apparizione fortuita, ignota, indifferente, sulle tavole di un palcoscenico. Quando, calato il sipario, mettemmo piede su quel palcoscenico, intimidito dal fatto di aggirarmi lì, mi misi a discorrere vivacemente con Saint-Lieu. In quell'ambiente affatto nuovo per me, dove non sapevo quale atteggiamento assumere, mi avrebbero visto, quindi, completamente immerso nella conversazione e sarebbe sembrato naturale che, occupato e distratto, io non mostrassi in volto le espressioni confacenti ad un luogo in cui m'accorgevo appena di trovarmi, tutto assorbito com'ero da ciò che stavo dicendo. E aggrappandomi, per non perdere tempo, al primo argomento che mi venne in mente, «Sai», dissi a Robert, «ero venuto a salutarti il giorno della mia partenza, poi non abbiamo più avuto occasione di parlarne, ti ho visto per strada». «Non parlarmene», rispose Saint-Lieu. «Mi è terribilmente dispiaciuto, ci siamo incontrati a due passi dalla caserma, ma non ho potuto fermarmi perché ero già molto in ritardo. Ci sono rimasto malissimo, te l'assicuro». E così mi aveva riconosciuto. Rivedevo ancora il saluto rigidamente impersonale che mi aveva rivolto alzando la mano al képi, senza uno sguardo dal quale trapelasse un segno di riconoscimento, senza un gesto che manifestasse il dispiacere di non potersi fermare. Evidentemente, quella finzione di non riconoscermi, messa in scena sul momento, doveva avergli notevolmente semplificato le cose. Ma mi pareva stupefacente che avesse potuto attuarla in modo così fulmineo, senza che il minimo riflesso tradisse la sua prima impressione. Avevo già notato a Balbec come, in contrasto con l'ingenua sincerità del suo viso, la cui pelle lasciava scorgere in trasparenza il brusco afflusso di determinate emozioni, il suo corpo fosse stato mirabilmente addestrato dall'educazione a un certo numero di dissimulazioni di convenienza e come egli potesse, da perfetto commediante, interpretare l'uno dopo l'altro, nella vita di reggimento, nella vita mondana, ruoli differenti. Calandosi in uno di questi ruoli, mi amava profondamente, si comportava con me quasi come un fratello, anzi era un fratello, lo era stato, lo era ridiventato. Eppure, per un istante, era stato un altro personaggio che nemmeno mi conosceva e che, reggendo le redini, il monocolo incastrato nell'orbita, senza uno sguardo né un sorriso, aveva alzato la mano alla visiera del képi per ricambiarmi un saluto correttamente militare. Gli scenari non ancora smontati, fra i quali mi trovavo a passare, erano, visti così da vicino e spogli di tutto ciò di cui li corredavano la distanza e l'illuminazione calcolate dal grande pittore che ne aveva dipinto i bozzetti, erano miserabili. E Rachel stessa, quando l'avvicinai, subì un'analoga demolizione. Le pinne del suo incantevole naso erano rimaste nella prospettiva, fra la platea e il palcoscenico, esattamente come il rilievo dei fondali. Non era più lei. Se la riconoscevo, era solo grazie agli occhi, in cui si era rifugiata la sua identità. La forma, il fulgore di quel giovane astro, fino a un attimo prima così sfavillante, erano scomparsi. Per converso, come se, All'avvicinarsi del nostro sguardo, la luna cessasse d'apparirci rosa e d'oro. Su quel viso in precedenza così liscio, compatto, non distinguevo più che protuberanze, macchie e avvallamenti. Malgrado l'incoerenza a cui si riducevano, visti da vicino, sia il volto femminile sia i fondali dipinti, ero felice di trovarmi lì, di camminare in mezzo alle scenografie, in quell'ambiente che un tempo il mio amore per la natura mi avrebbe fatto giudicare noioso e artificioso, ma al quale la descrizione di Goethe nel Wilhelmmeister aveva conferito una certa bellezza. Tra la folla di giornalisti e amici mondani delle attrici che salutavano, chiacchieravano, fumavano come fossero in piazza, ero affascinato dalla vista di un giovane con un gonnellino color ortensia, un berretto di velluto nero e le guance segnate di rosso come un foglio d'album di Watteau, il quale, bocca sorridente e occhi al cielo, sembrava, nell'abbozzare graziosi gesti col palmo delle mani e nel saltellare con leggerezza, così decisamente di un'altra razza rispetto alle persone ragionevoli in semplice giacca o redingot, fra le quali perseguiva come un folle il suo sogno estasiato, così estraneo alle preoccupazioni della loro vita, così anteriore alle abitudini della loro civiltà, così affrancato dalle leggi della natura, che seguire con lo sguardo, tra i fregi della scena, gli arabeschi naturali che vi tracciavano i suoi svaghi alati, imbellettati e capricciosi, era non meno fresco e riposante che vedere una farfalla smarritasi in mezzo a una folla. Ma, nello stesso istante, Saint-Loup si figurò che l'attenzione della sua amante fosse attratta da quel ballerino intento a ripassare per l'ultima volta una figura del divertimento in cui doveva danzare, e il suo volto si annuvolò.